Ecco, noi Giovanni Costantino di Distribuzione Indipendente per parlare del film Anna di Charles-Olivier Michaud in uscita in sala il 31 maggio. Giovanni, ben trovato. Ciao, bentrovati a voi. Lo racconti brevemente? Ma guarda, brevemente, la tematica è veramente attualissima. Anna Mugladis è straordinaria, bellissima, bravissima. Tratto da una storia vera, una giornalista francese che si trova nel sud-est asiatico e indaga su quello che è il traffico umano, nella fattispecie proprio delle donne, che fin da bambine vengono vendute e vengono utilizzate, alcune per ovviamente il traffico della prostituzione, altre come operaie e via dicendo. Il film è un film che lo stesso regista ha fatto con il desiderio che potesse far discutere, potesse aprire una tematica che in alcuni paesi, addirittura in alcuni continenti, non è mai abbastanza indagata e mai abbastanza sono le leggi e le azioni che vengono fatte per limitare i danni di queste azioni assolutamente delinquenziali. Per cui devo dire un thriller veramente, veramente bellissimo. Il film ha stravinto praticamente ovunque nel mondo nei festival, è stato venduto in 67-68 paesi stranieri, per cui è un thriller assolutamente da non perdere. Nel mercato del sesso, come si vede nel film, pesanti responsabilità occidentali. Ma guarda, noi avevamo fatto un altro film qualche tempo fa, qualche anno fa, che era Life and Death of a Porno Gang, ambientato in Croazia, in Serbia, in Croazia, durante la guerra jugoslava, e dove si denunciavano proprio quelli che erano le responsabilità dell'Occidente, dove da un lato a casa propria mantiene tutte le virtù e pubblicizza tutte le virtù, e invece nei luoghi dove c'è la guerra o dove comunque sia c'è spazio per un mercato nero molto ampio, ecco, dove c'è il mercato nero non ci sono regole, non ci sono controlli, non ci sono dazi, ed è lì che vige il vero volano dell'economia, paradossalmente. E ovviamente chi ha in mano questo volano ce l'hanno i paesi più industrializzati, che trovano comunque sia in alcuni paesi, in nazioni, parti di continenti, trovano veramente spazi fertili per poter fare quel mercato senza alcun controllo, che poi è volano di tutta anche l'economia istituzionale. Giovanni, dove avete incontrato il film? Ma guarda, in verità è stato grazie a Summerside, l'agenzia internazionale che ce l'ha proposto, e subito ci è piaciuta moltissimo, non soltanto la qualità del film, la potenza, il fatto che stesse vincendo veramente tantissimi premi in festival internazionali, ma soprattutto la tematica. Quest'anno abbiamo un catalogo molto legato a delle tematiche assolutamente attuali, di forte denuncia, anche quando si tratterà di commedie come Peggio per me. Questo qui è un film veramente che va visto, perché comunque il regista è riuscito a dare un'impronta non strettamente legata al genere, ma assolutamente è riuscito a coniugare denuncia, genere, qualità. No, devo dire, veramente un film, ecco, a chi ama il cinema veramente va, è un film gustoso, ecco, proprio cinematograficamente parlando. Sì. Del regista cos'altro sappiamo? Guarda, è un'opera prima del regista, devo dire che ha debuttato veramente alla grande, aveva già fatto dei cortometraggi, mediometraggi che avevano già avuto grande successo. La produttrice è una delle produttrici più vincenti e più importanti del Nord America, per cui tra l'altro il regista verrà a presentare proprio a Roma il film al Cinema Aquila domani sera e dopodomani al Cinema Farnese. Per cui ci sarà la possibilità anche di incontrarlo, viene proprio direttamente dal Canada, lui è canadese, e quindi anche di fare delle domande alle quali lui risponderà, anzi si è proprio prestato e ci tiene moltissimo, perché per lui, oltre ad essere ovviamente una prima esperienza di lungometraggio meravigliosa e riuscitissima, è anche un modo per dare anche più spessore alla tematica che lui ha cercato di portare nel film. In quante sale? Ma guarda, noi quest'anno abbiamo cambiato completamente tipologia distributiva, per cui noi, ti posso dire, il film girerà in circa alla fine, in 4-5 mesi, in circa 100 sale. Partiamo da Milano, Roma, Genova, Firenze e Nord Italia, adesso precisamente non mi ricordo, sì. E per poi allargarci. È un film, non siamo più legati all'idea che esce il film in quella settimana deve fare a tappeto tutte le città, no, anche perché ormai escono 10-15 film a settimana, per cui riuscire a mantenere il film nelle sale più tempo, dandogli la possibilità anche di farsi conoscere, farsi vedere anche in un arco di tempo maggiore rispetto a quello che ormai è la norma, per noi è diventato importante per la qualità dei film che facciamo, no? Sì, sì. Chiudiamo con tutti i riferimenti web per saperne di più? Assolutamente, www.distribuzioneindipendente.it oppure la nostra fanpage di Facebook Distribuzione Indipendente, troverete tutte quante le notizie, le news per seguirci. Allora ricordiamo Anna di Charles Olivier Michaud, in uscita in sala il 31 maggio. Un saluto a Giovanni Costantino di Distribuzione Indipendente, un abbraccio Giovanni e in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, a presto, ciao. Ciao.